Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ciao papà. Mamma, sono Kate. Mamma, purtroppo non potremo essere Ciao, da voi papà, domani. Sono Lo sai che ci è dispiaciuto da morire Sai, l'anno scorso, ma dovevo risolvere. Non potremo festeggiare problema. Con voi domani. Ogni anno Brad e Kate passano le vacanze evitando le rispettive famiglie. Sospesi i voli in arrivo e anche quelli in partenza. Non è possibile. Non esiste una compagnia gemella? No, mi dispiace. Una compagnia cugina? No, neanche. Ma quest'anno? Dove passerete le vacanze? Saranno costretti a festeggiare. Ciao, mamma. È mio padre. Ci hanno appena visti in TV. Con tutti loro. Ti darà un bel abbraccio appena ti vede, mamma. Io non abbraccio nessuno. L'idea l'ho letta molto. Faremo in modo che queste quattro visite siano più rapide e indolori possibile. Natale mi viene male, buongiorno da Nicoletta. Se l'avete detto o pensato, potete ripigliarvi. Il Natale passato, anche quest'anno è andata, come si dice. Siamo sopravvissuti ai regali, agli auguri, alle cene, ai brindisi, ai parenti. Ed è sopravvissuto sicuramente il nostro dottor Francesco Aquilar. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Auguri. Auguri. Ricordo che il dottor Aquilar è psicologo e psicoterapeuta cognitivo, nonché esperto del nostro Daily Lab. Dottor Aquilar, adesso finalmente possiamo rilassarci. Il più è andato. E meno male sia per coloro ai quali è andata bene, sia per coloro ai quali è andata un po' peggio, perché per coloro ai quali è andata bene, certamente c'è la stanchezza del piacere delle feste di Natale. La stanchezza dell'incontrare tante persone, dello scambiare i regali, anche dell'essere contenti, perché anche quello porta una certa stanchezza. In più quelli a cui è andato male hanno qualche altro problema, perché hanno dovuto digerire delle relazioni indigeste, hanno dovuto arrabbiarsi soprattutto con quelli che soffrono di reazione anniversario, cioè che devono, quando c'è una festività, fare di tutto per guastare le feste. E quindi in entrambi i casi noi possiamo trarre un respiro di sollievo e un sospiro di sollievo e rivalutare questa esperienza dove il calore, l'affetto e il volersi bene comunque dovrebbe essere trasudato. Dottor Aquilar, dica la verità, queste feste alla fine sono sempre una bella prova, una prova anche un po' difficile. Sì, sono una prova perché ci sono alcuni conflitti sottostanti alle relazioni fondamentali e più importanti, quelle familiari o degli amici più intimi, che inevitabilmente quando c'è più tempo per poterci lavorare sopra possono rischiare di venire alla superficie e dobbiamo imparare a perdonarci e a perdonare le persone care per i loro limiti, perché altrimenti non solo riceveremo il danno ma anche le beffe di continuare a soffrirne anche nei giorni successivi. Inoltre dobbiamo in qualche modo approfittare di queste occasioni per riaggiornare la mappa delle nostre relazioni importanti, perché alcuni possono diventare più importanti perché scopriamo un momento di maggiore vicinanza o una capacità di comprensione e di affetto che queste persone hanno sviluppato, mentre invece altri diventano meno importanti, scendono nella hit parade perché hanno avuto un'involuzione negativa o che non va nella nostra direzione. Quindi è un bel momento di bilancio. A volte però, dottor Aquilar, tornare al lavoro è quasi una liberazione, ritornare al tran tran quotidiano. Certo, è piacevole. È una liberazione per coloro che da un lato si trovano disorientati dall'avere troppo tempo a disposizione senza una struttura precisa. Poi può essere utile ritornare al lavoro per coloro che hanno bisogno proprio del ritmo del lavoro per metabolizzare le esperienze fatte. E in altri casi, per quelli che hanno la stanchezza eccessiva da festeggiamenti, in realtà tornano al lavoro per riposarsi in questi giorni. Dottor Aquilar, Natale passato, ci aspettano comunque altre occasioni di feste e di incontro. Facciamo tesoro dell'esperienza che abbiamo maturato in questi giorni di festa. Al primo posto dobbiamo ricordarci e approfittare di questa occasione per mandarlo a mente meglio, che non dobbiamo farci imprigionare dalle nostre aspettative. Molte persone soffrono semplicemente perché la loro aspettativa sul weekend, sul compleanno e più che mai sul Natale non è stata soddisfatta appieno. Allora possiamo approfittare di questa occasione per ricordarci che le nostre aspettative sono solo un'ipotesi e che se sono confermate o più sorprendenti in positivo ce le godiamo, ma dobbiamo ridimensionare la sofferenza nel caso in cui queste aspettative fossero state non rispettate o deluse. Sull'altro piano c'è la questione della importanza delle relazioni affettive che in questo periodo vengono celebrate e che, se noi non siamo così esageratamente pignoli, ci consentono di sentirci meno soli e di accompagnarci in tutti i momenti più importanti della vita. Grazie dottor Aquilar per essere stato con noi. Mi sembra di capire che il Natale per lei sia andato parecchio bene. Penso di sì, perché le aspettative non erano tanto alte. Ecco, quindi aspettative un pochino più in basso, per non essere delusi. Esattamente. E poi avanti tutta, verso Capodanno. Verso Capodanno e con lo stesso schema, avendo imparato come è andata a Natale, potremo utilizzare questa conoscenza per goderci un Capodanno sereno, allegro e creativo. Magari si cambia compagnia. Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Si cambia compagnia e sicuramente si cambia stato d'animo e stato mentale se lo stato d'animo e stato mentale non ci sono piaciuti appieno. Perché a me a Capodanno viene sempre sonno? E beh, perché proprio il discorso della stanchezza. Tante volte abbiamo parlato in trasmissione di quanto sia difficile per le persone riconoscere le emozioni. Mm. Per molte persone è anche difficile riconoscere le sensazioni. Noi a volte in terapia dobbiamo insegnare ad alcune persone a riconoscere la stanchezza e quindi a comportarsi riconoscendo questa stanchezza, perché non se ne accorgono, prese dal tran-tran quotidiano, non se ne accorgono e poi si sentono scoppiare. Quindi lei mi vuole mandare a dormire, dottor Aquilar. Perché no? Una piccola pennichella, anche dai, se non è proprio l'ora adatta, credo che ce la possiamo godere in questi giorni. Grazie, dottor Aquilar, auguri. Grazie. Buona giornata. Un auguri a tutti gli ascoltatori, arrivederci. Mamma mia, che mal di pancia, ma che male mi è venuto all'improvviso, ma chissà, chissà perché. E pensare che ho mangiato stamattina solamente due brioche e un cappuccino, così come c'era ancora un posticino, ho mangiato sei cannoli e tre pinne. Ho mangiato per il pranzo a mezzogiorno. Per il Topo Gigio all'ascolto, alcuni consigli per riprendere a stare bene. Quando cenone si dice fa rima con indigestione. Il periodo delle feste natalizie, lo sappiamo tutte, è particolarmente a rischio. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Attilio Giacosa, direttore scientifico del Dipartimento di Gastroenterologia del Gruppo Sanitario Policlinico di Monza. Buongiorno dottore. Buongiorno. Siamo un popolo di santi, poeti, navigatori, ma abbiamo lo stomaco, dottore, un po' delicato. A fotografarlo, nero su bianco, una ricerca dell'ANIFA, che è l'Associazione Nazionale dell'Industria Farmaceutica per l'Automedicazione. Sì, infatti è una ricerca molto recente che dimostra come circa il 60% degli italiani, e parliamo della popolazione di italiani che normalmente stanno bene, non sì, dei disturbi, ma il 60% di chi sta bene una volta ogni 2-3 mesi ha una difficoltà digestiva, riesce male, ha dei problemi insomma con l'alimentazione. E questo naturalmente accade in modo più significativo quando si mangia di più, è certo, perché ma è la quantità in prima misura, è la frequenza anche ravvicinata di pasti, e poi di pasti che sono sempre un esame, perché sono caratterizzati da un numero elevato di portate, da cibi particolarmente lavorati, elaborati, ricchi, soprattutto ricchi in grassi e ricchi in zuccheri. E l'insieme di tutto questo naturalmente costituisce una fatica, una grossa fatica per l'apparato digestivo. E il nostro stomaco si lamenta e lo fa in modo differente negli uomini e nelle donne. Sì, esistono delle differenze che sono emerse anche da questa ultima analisi che è stata fatta sul campione intervistato. I maschi patiscono la parte digestiva, cioè hanno peso, hanno gonfiore, fenomenologie caratterizzate da gonfiore alla bocca dello stomaco, anche sonnolenza, un po' di torpore nel postprandium, mentre per la popolazione femminile è più frequente il disturbo intestinale, è più l'intestino, è più il gonfiore addominale globale, il ventre che si distende con difficoltà poi nel vestire alcuni indumenti o comunque nel vivere una vita di relazione serena, e altrettanto dicasi variazioni della funzione dell'intestino. E le cause anche sono diverse tra maschio e femmina. Perché noi siamo, noi intese come donne, siamo un pochino più sensibili allo stress, siamo anche in questi giorni di feste, bisogna preparare, organizzare, cucinare, pensare ai regali, mettere insieme gli amici, i parenti, insomma è una bella fatica, dottore? È una grossa fatica che vede poi l'apparato digerente chiamato in causa, perché tutta questa difficoltà emozionale spesso si traduce in una maggiore difficoltà nel digerire o comunque nell'attivare processi che sono vicini a quelli che chiamiamo sindrome da colon irritabile, un intestino che si irrita e che può avere dei problemi. Mentre per i maschi in generale è proprio la quantità, è il pasto, è il cibo, gli alcolici, la, diciamo così, dicevo prima, particolare ricchezza negli alimenti e soprattutto in alimenti particolarmente indigesti, quello che rappresenta il fattore causale di prima importanza. C'è chi ha giocato d'anticipo puntando sulla moderazione, ha mangiato un pochino di tutto ma senza esagerare, e chi invece ha preferito godersela prima per automedicarsi dopo. Infatti previsto un aumento del consumo di farmaci di automedicazione proprio per dare sollievo a quegli stomaci in fiamme o appesantiti. Dottore, è una buona idea? Ma è un'idea, come dire, da pronto soccorso, anzi un'alternativa meglio al pronto soccorso, perché quando si è seguita l'indicazione delle nonne, si è fatto un canarino, diciamo, qualcosa di caldo se non si è digerito bene, quando ci si è fatti due passi anziché rimanere fermi a tavola e continua ad essere presente la difficoltà digestiva, qualcosa sa da fare. E naturalmente in quei giorni, nei giorni di festa, è difficile trovare il proprio medico, è anche abbastanza seccante andare ad un pronto soccorso, rimanere lì ore per essere visitati, visto che il disturbo è di debole importanza, e allora è saggio far ricorso a un antiacido se c'è bruciore, far ricorso a un procinetico se c'è quel peso, quell'ingombro allo stomaco, oppure ad un antisecretivo se vi è un vero e proprio dolore nella zona gastrica, nella cosiddetta bocca dello stomaco. Tutto questo o lo si ha in casa, perché sono prodotti abitualmente, diciamo così, presenti nelle famiglie, e anche perché chi ha l'abitudine a mangiare un po' di più in occasione delle feste si trova poi a gestire questi problemi con relativa frequenza, allora è facile averli in casa. Oppure, se così non è, si può transitare in una farmacia e parlarne col farmacista e avere non solo indicazione sul prodotto ma anche su come gestirlo, perché il concetto di automedicazione impone che si leggano molto bene i foglietti illustrativi, che si seguano delle regole precise e se non sono conosciute queste regole, che si dibattano quantomeno con il farmacista, oppure se si ha la fortuna di trovare il proprio medico, naturalmente anche con lui, questo è importante. Nina, ho mangiato troppo e stasera non ceno. Ma se non hai toccato niente. Come niente? Le farfalline all'uovo. Un poco di brodo vegetale. Ma le farfalline all'uovo sono pesantucce. C'è sta l'uovo. C'ho la pancia gonfia. Ti sei mangiato la trippa del signor Centocelle e questo è il risultato. Poi il signor Centocelle è romano. Teniamo il vicino romano, io non mi mangio la trippa. E come faccio un maggiore dei carabinieri con la pancia? Dottor Giacosa, ecco, questa è un po' una scena tipica. Se non funziona il canarino, se non funziona la passeggiata, aggiungerei, a me funziona molto bene, quando c'è lo stomaco un po' appesantito, avverto una sensazione di nausea, o metto in pratica il consiglio della mia nonna, che è mettere delle calze pesanti, tenere molto caldi i piedi. Dottore, funziona. Auguri. Non lo consiglierei su scala nazionale, però, perché è una metodologia non validata, però scherzi a parte, anche così evitare variazioni di temperatura marcata e soprattutto non esporre l'addome ad ambiente freddo può essere un aiuto. È sempre buon senso, e anche il buon senso va usato con i farmaci di automedicazione. Allora vorrei da lei, dottor Giacosa, avere un piccolo bignamino, un ripassino per le regole d'oro per un corretto uso di questo tipo di farmaci, che ricordiamo si riconoscono dal bollino rosso. La regola essenziale è quella di avere informazione precisa su questi prodotti. I prodotti sono dei farmaci quindi non sono prodotti che so integratori o altro, sono farmaci veri e propri e quindi hanno dei pro e dei contro, possono avere anche dei piccoli effetti collaterali, quindi bisogna conoscerli in maniera precisa e quindi leggere le istruzioni sia per la indicazione che per quanto riguarda la posologia, che sono sempre ben riportate, certo, negli illustrativi. E ripeto, se si ha qualche dubbio, parlarne con un interlocutore qualificato e quando è possibile con un farmacista o con un medico, naturalmente. E soprattutto chiedere al farmacista o al medico se il farmaco scelto può essere assunto contemporaneamente ad altri medicinali che si stanno eventualmente assumendo, sì, o anche in caso di allergie. Esatto. Ecco, l'indicazione è cerchiamo di farne a meno dei farmaci. Questa, esatto. Ecco, assolutamente. È indiscusso che... sì, diciamo il disturbo è un disturbo banale, facendo proprio quelle poche cose, limitando il pasto successivo, facendo due passi, la più parte dei casi si risolvono, ecco, non bisogna mai abusare di farmaci. Provi anche lei, dottore, le calze di lana, piedi belle caldo, mi auguro che lei non ne abbia bisogno, ma poi mi chiama e vedrà che funziona. Grazie al dottor Giacosa per essere stato con noi, buona giornata. Auguri. Ma a volte il nostro stomaco e il nostro intestino vengono messi a KO non solo dai cenoni, dai brindisi, ma ahimè dall'influenza che un po' come i parenti serpenti arriva proprio intorno a Natale. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Dino Vaira, gastroenterologo, professore universitario di medicina interna dell'Alma Mater di Bologna. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Festeggio anche con lei il Natale che è passato e l'anno nuovo che deve venire, quindi auguri, auguri, auguri. Senza influenza, per favore. Eh? Senza influenza. Senza influenza. Dottore, professore, però a chi tocca tocca. E mi sembra che quest'anno... Non è vero, possiamo fare un po' di profilassi, un po' di prevenzione, altro che chi tocca tocca. Questo mi piace, questo volevo sentirmi dire da lei. Allora, se ancora l'influenza non si è accorta di noi, ecco i consigli del professor Vaira. Professore. Noi. Per esempio lavandoci bene bene le mani, per esempio sbaciucchiando con un minimo di paucità i nostri piccolini, specialmente se sono già influenzati. Cioè questa è un'influenza che si trasmette interpersona. Quindi è veramente molto importante quel minimo di igiene che sicuramente i nostri ascoltatori hanno, ma che in realtà ci proteggono moltissimo, perché come noi ben sappiamo questo è un virus, è cattivo, è molto cattivo e ci si attacca, ci si contagia praticamente all'interno del nucleo familiare. Professore, i sintomi sono molto fastidiosi, facilmente riconoscibili, la nausea, disturbi intestinali, diarrea. Che è veramente pericolosa per i nostri piccolini sotto i 5 anni, tenendo presente la metafora che io faccio è sempre la bottiglia che si svuota di acqua, quindi i nostri piccolini sono delle bottigline piccole e che se si svuotano d'acqua ovviamente rischiano moltissimo. Quindi veramente molta attenzione, non sottovalutare questi casi di influenza. E quindi... aiutare il bambino a bere. Idratazione. Ecco. Idratazione, parola d'ordine, parola d'ordine acqua... H2O, l'acqua. Parola d'ordine è l'acqua con banalissimo cucchiaio di zucchero, parola d'ordine è un po' di tè senza limone con un po' di zucchero, quindi fondamentalmente ripristinare la quantità di acqua perduta. Questo è importantissimo per i piccoli ma anche per i grandi, assolutamente, professore. Assolutamente sì, perché i poveri grandi in realtà restano letteralmente bastonati, perché l'influenza lei l'ha avuta, io l'ho avuto, i nostri radioascoltatori, qualcuno, non tutti l'hanno avuto, realmente si ha la sensazione come se qualcuno ci avesse dato tante botte, quindi abbiamo la schiena a pezzi, abbiamo lo stomaco a pezzi, ci pieghiamo letteralmente a metà e non siamo in grado di, come dire, interagire con il prossimo. Anche perché prendersi l'influenza magari nei giorni di feste proprio, professore, sembra troppo. È sgradevole, assolutamente, sono giorni in cui almeno per un pizzichino dobbiamo tentare di stare sereni, ovviamente fermo restando la nostra mannaia della spending review che ormai ci attanaglia tutti. Altro che influenza, professore. Quindi idratazione e per quanto riguarda invece la dieta, leggeri o ci sono degli alimenti da preferire? Leggeri realmente per almeno un paio di giorni. per dare la possibilità al nostro organismo di riprendere. Questo è innanzitutto per i piccolini, ma ovviamente vale anche per gli adulti, ma non c'è ombra di dubbio che io e lei abbiamo, tra virgolette, più capacità di reazione rispetto al nostro piccolo di 2 o 3 anni. Quindi è ovvio che il piccolo di 2 o 3 anni bisogna avere molta più accortezza, perché tra virgolette è molto più pericoloso rispetto alla mamma o al fratello adulto o alla sorella adulta. Quindi assolutamente almeno 3 giorni di dieta. 3 giorni di dieta e stare a casa a letto, se non esatto, a letto i bambini non ce la fanno. Di base, si ricorda Nicoletta, il suo dottore, il mio dottore, quando eravamo piccoli, cosa ci diceva? State a casa, fermi, immobili e riprendete le forze. È realmente così. Ecco, funziona così, sembra il consiglio della nonna, ma è proprio vero ed è provato. Noi abbiamo bisogno di riposo per guarire. Noi abbiamo una cellula con un nome maledetto che in realtà è esattamente, sono gli spinaci di braccio di ferro, che è l'ATP, l'adenosiltrifosfato, che è quello che ci dà proprio l'energia, esattamente come i barattoli di spinaci per braccio di ferro. E per produrre questa molecola abbiamo solo bisogno di stare a letti a riposo. Un altro consiglio che si può dare, professore, lei lo confermerà, è proprio il sonno, dormite. Vero, assolutamente, professore? Assolutamente, ma infatti quando si diceva di stare a letto in realtà uno dormicchiava per le classiche 10-12 ore, cioè la metà del tempo a disposizione in realtà serviva proprio per riposare. Capisco che tutti questi consigli in un giorno di festa, di dopo festa, ma che stiamo puntando a Capodanno, uno non vorrebbe sentirseli dire e dare, perché non vorrebbe averne bisogno, però è molto importante. Se invece l'influenza, grazie a lei, cara Nicoletta, i nostri radioascoltatori possono evitarlo ascoltando la sua radio, ascoltando i suoi consigli, possono fare delle belle feste in santa pace senza beccarsi l'influenza, quindi facendo della banalissima prevenzione, quindi stando veramente attenti, lavandosi più possibile le mani e stando attenti a non passarsi questa maledetta e fastidiosa influenza l'un l'altro. E poi ricordatevi il lettone per riposarvi e per attivare l'ATP, esatto, che sono gli spinaci del nostro sistema immunitario. Proprio così. Grazie professor Vaira, io sono sicura che io e lei portiamo buono e che chi ha sentito questa puntata l'influenza non la beccherà. Professore, grazie, buona giornata. E a lei e a tutti i radioascoltatori, buona giornata. Essere e benessere. E a proposito di magi, sono in partenza, saranno in partenza, arriveranno all'Epifania, che tra l'altro tutte le feste, ahimè, le porta via, ma in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Ciro Vestita, medico dietologo dell'Università di Pisa, che ci racconterà delle cose inedite sui 3 re magi. Buongiorno, dottore. Sì, il Vangelo secondo Matteo è l'unico che ne parla, bellissimi personaggi, portano 3 cose splendide. Innanzitutto la mirra, grande anestetico, mirrato era il vino che il soldato romano dette a Gesù per stordirlo, per pietà glielo dette e fece molto bene. L'incenso è una pianta, la boswellia, utilissima in tante patologie, ma soprattutto il giallo, l'oro, non era oro, non era il vile metallo, ma era la curcuma. Già in Palestina in quel tempo questa radice veniva grattugiata, veniva donata con grande generosità a tutti, perché la curcuma ha un grande potere antinfettivo, combatte tantissime patologie, ha un potere antimicrobico eccelso e se mescolato ad altre spezie diventa curry, riesce ad abbattere, come noi sappiamo, fortemente il tumore alla prostata. Inoltre, per chi ha mangiato tanto in questo periodo, Nicoletta, ovviamente noi sappiamo che mangiando tanto e troppo a Natale prendiamo un sacco di sale, e se abbiamo preso 3 kg in più, quei 3 kg probabilmente saranno all'80% di acqua legata al sale e cloruro di sodio che abbiamo introdotto. È importante, soprattutto per i bambini, fin dalla tenerissima età, iniziare a condire con il curry. Se io, quando faccio la pasta, sto bollendo la pasta, non metto il sale, ma metto tanto curry, io non sento la mancanza del sale. Però il sale farà male, il curry fa tanto bene. Quindi evitare il sale è la cosa prima che noi dobbiamo fare dopo queste feste. Tra l'altro si aggiunge quasi a fine cottura, sia alla curcuma sia al curry. Io lo uso ovunque e soprattutto lo do ai ragazzini perché è una polvere molto buona, sapida, fortemente fatto di 20 spezie, non una, con delle meraviglie scoperte soltanto adesso. È stato proprio il professor Veronesi a dire: attenzione, la curcuma funziona se c'è il pepe anche. Perché? Perché la piperina che si lega con la curcumina, e tu pensa che sono 5.000 anni che il curry viene usato, adesso noi ne scopriamo, grazie a questi grandi oncologi, ne scopriamo veramente le virtù. Quindi il curry va usato in grande quantità, si trova ovunque in tutti i mercati a 2-3 euro a scatoletta eccetera, e deve essere usato per chi ha la colesterolemia alta, per chi ha la glicemia elevata, per chi ha mangiato troppo, ma soprattutto per i ragazzi, per dare sapidità, per dare sapore in una maniera innocente, utile, ed evitando il sale, perché noi sappiamo bene il sale che danni fa. Due pizzichi di curry al giorno tengono il medico, levano il medico di torno. Beh, direi proprio di sì, splendori, sono 20 spezie veramente belle, buone. Senza nulla togliere alla mela. Beh, la mela è una cosa completamente diversa. Se volete sapere la storia, la mela è bellissima. Negli anni 60 vennero giudicati gli alimenti in base alla presenza di due vitamine, la A e la C. Sempre si era detto che la mela al giorno toglieva il medico di torno. I grandi soloni di quel periodo, degli anni 60, dissero: no, questa qui non contiene né A né B né C di vitamine, la togliamo di mezzo, non vale nulla. Grande errore, perché io, se in laboratorio faccio un tracciato cromatografico della mela, trovo minimo 600 sostanze. Chi mi dice che la 432, a me perfettamente sconosciuta, non combatta ad esempio il tumore al seno? Quindi la madre natura va lasciata, abbiamo un complesso di molecole ancora perfettamente sconosciute, e vi assicuro che mangiare mele, mangiarle soprattutto con la buccia, presenta il tutto un grande valore nutrizionale e terapeutico, perché nella buccia sono stati scoperti recentissimamente degli alcoli e dei triterpeni capaci di agire come antimicrobici in maniera eccezionale. Se aggiungiamo poi le pectine, che abbassano fortemente il colesterolo, beh, più di così cosa vogliamo? La mela è veramente un mito. E ce ne sono di tante varietà. Soprattutto le cultivar antiche andrebbero rivalutate, sono cultivar che non richiedono trattamenti con fitofarmaci, costano pochissimo, ma cosa accade, Nicoletta? Tu vai nei mercatini a comprarli, sono piccole, bitorzolute, piene di macchie, li regali a un amico e quello te le tira dietro, perché speriamo di no, dottor. Ci vuole prima un po' di cultura, spiegare che questi alimenti sono eccezionali, che non è la bellezza del frutto che fa il quid, ma è la salute e soprattutto l'essere esente dai diserbanti e altro. Dopo la mela, vogliamo, dottor Vestita, parlare del limone? Gli agrumi la fanno da padrone in questa stagione, sono preziosissimi, li possiamo anche aggiungere alle insalate, quindi non solo consumare come frutti, ma sul limone ci sono delle novità molto interessanti. I lavori immensi, al di là di quello contro la calcolosi, io ne aggiungerei un altro. Chi ha abitudine a fare il famoso canarino, c'è un nome un po' particolare, questo uccellino qui non dà l'idea della salute, ma vi assicuro che fare il canarino altri non è che una decozione della buccia con un'estrazione chimica dei principi attivi, chiamati anche droga ovviamente, che riesce questo canarino a fortemente aumentare le difese immunitarie, riesce ad avere un valore eccezionalmente utile per le patologie stagionali, e innanzitutto è un grandissimo digestivo. Quanta gente non digerisce praticamente dopo pranzo perché non ha stimolazione dei succhi gastrici? Ti assicuro che un pochino di acqua bollente, una buccia di limone, quindi il canarino, vi aiuta a digerire in maniera splendida e abbassa anche la colesterolemia. A Sorrento, io ho fatto tante volte linea verde per la RAI a Sorrento, ci sono questi ragazzi con questi limoni, lo sfusato di Sorrento, loro lo tagliano a fette, lo condiscono con aceto e un pochino appena appena di sale, un po' di pepe, e diventa un'insalata buonissima. In questa maniera, Nicoletta, tu mangi anche la buccia. Ma noi, se ci mettiamo, dottor Vestita, ma se io sul limone provassi, vado a casa e lo farò, a mettere un po' di curry? Una bomba. Allora, il curry io lo uso ovunque. Il curry può avere veramente una grande valenza di sapore, diciamo. Vi assicuro che limoni e curry sono eccezionalmente buoni. Però, visto, Nicoletta, che si parla di salute, il discorso è questo: il curry andrebbe usato dappertutto, nei brasati, negli arrosti, sul pesce, eccetera. Se noi riusciamo a usarne 5-6 grammi al giorno, e non è poco perché è una polvere, la nostra esperienza clinica, la nostra esperienza sul campo, perché noi poi facciamo medicina pratica, ci dice questo: la colesterolemia si abbassa fortemente. Il soggetto in genere non si ammala. Se un bambino di 8 anni lo voglio proteggere dalle patologie infettive, dalle malattie stagionali che vengono in inverno, non ho molte armi. Se non voglio usare farmaci, vaccini strani, eccetera, io uso il curry e il succo di limone e il bambino non si ammala più, guarda caso. Fantastico, soprattutto come lei anticipava, ci permette di ridurre anche il quantitativo di sale. C'è un studio bellissimo fatto dalla Oxford University sulle scimmie degli zoo che mangiano come noi, quindi sono umanizzate, i nostri cugini, e loro sono andati però anche praticamente nel vecchio Congo belga a studiare le scimmie allo stato libero, e vi assicuro che la percentuale di malattie cardiovascolari delle scimmie dello zoo di Londra è identico al nostro. Invece nelle scimmie allo stato libero non c'è nessuna patologia cardiovascolare, probabilmente perché mangiano meglio, grazie a Dio, e non usano sale, quindi qui siamo studi molto forti, molto pregnanti. Dottor Vestita, vogliamo dimenticarci del melograno? Ma il melograno, io anche qui voglio dire, io sono stato tante volte in Tunisia. Tunisia, immaginate che loro non lo aprono, lo massaggiano fortemente con le dita, ci infilano una cannuccia e lo mangiano. Allora, il melograno è qualcosa di pazzesco per l'ossuriasi dei bambini. Se un bambino va all'asilo 3-4 anni e prende gli ossuri, diventa una tragedia greca. Perché? Perché viene che sono, ricordiamo, quei vermetti. Se il bambino invece, sapendo che all'asilo ci sono queste ossuriasi, beve quotidianamente del succo di melograno, beh, la nostra esperienza è che difficilmente praticamente si riesce ad avere, cioè si viene infettati praticamente da questa antipaticissima ossuriasi. C'è da dire anche una cosa, visto che il target ci ascolta, ma molto la cultura. Nel 1384 scoppiò la peste a Siena, una cosa pazzesca. Lo scrittore Agnolo Tura descrisse praticamente la pestilenza nella sua città, ci disse, ci scrive in maniera molto commovente, che praticamente lui riuscì a seppellire tutti i suoi 5 figli, una tragedia vivente, lui rimase integro, morì di vecchiaia bevendo tanto succo di melograno. Sarà vero? Probabilmente no, la peste ovviamente non si ferma davanti a questo, ma la realtà ci dice che Agnolo della Tura riuscì a morire di vecchiaia. Probabilmente ci sono delle molecole antinfettive nel succo di melograno che noi non conosciamo. Dottor Vestita, io ricordo in una puntata in cui lei ci aveva raccontato le virtù del cavolo e del centrifugato. Da allora, ancora a distanza, alcuni ascoltatori mi scrivono per capire come si fa la ricetta, chi serve, quanto berne, come berne, a digiuno. Allora, ci faccio un regalo. Allora, il cavolo è acclarato, c'era anche su Google News l'altro giorno la presenza di questi sulforani con potere antitumorale enorme. In soldoni, mangiare tanti cavoli, cosa accade però? Il cavolo dà delle coliti spaventose, ecco allora il centrifugato di cavolo. Io prendo una centrifuga, costa 10 euro, ci metto una palla di cavolo, cavolo verde ad esempio, e viene fuori da un chilo di cavolo 250 cc, quindi un bicchierone di succo di cavolo. Che diciamo la verità, dottor Vestita, sì, perché io l'ho provato, non è buonissimo. Bisogna tapparsi il naso, come quando si va a votare, bisogna tapparsi il naso e andare avanti, però vi assicuro che è qualcosa di pazzesco, perché noi riusciamo, noi che facciamo medicina naturale, addirittura a frenare le microemorragie di una colite ulcerosa, ovviamente non grave. Se le colite ulcerose o il morbo di Crohn sono piccoline, non sono ancora in uno stadio avanzato, eccetera, beh, questi centrifugati fanno dei piccoli miracoli, perché cicatrizzano, grazie appunto ai sulforani del cavolo, le microlesioni che si stanno attuando in queste patologie. Ma anche in patologie più banali, se io ho ad esempio una gastrite, un reflusso gastroesofageo, se non voglio usare gli inibitori di pompa, che sono farmaci perfetti a tutti gli effetti, ma non li voglio usare, io col succo di cavolo e il centrifugato di patate riesco a tamponare i succhi gastrici e a stare meglio. Sono vecchissime metodiche che adesso però vengono dimostrate e provate dalla ricerca. Cavolo. L'American Cancer Association mette al primo posto fra gli alimenti antitumorali proprio i cavoli e tutte le brassicacee. Allora, dottor Vestita, lei deve venire una volta qui, faremo una puntata, la filmeremo con tutti i prodotti che è opportuno inserire con più frequenza nella nostra dieta, ma daremo anche delle ricette, faremo in diretta il centrifugato di cavolo, l'aspetto. Grazie, Nicolette. Buona giornata. Ciao. Essere e benessere. Ehi, amico. Yeah. Tu sei famoso per essere scappato tutte le volte che ti hanno preso. Ricordati che io sono famoso per non essermi mai fatto scappare niente, nemmeno uno sternuto, chiaro? E allora voi che fate? Come Bud Spencer oppure no? Parliamo di starnuti, voi lo trattenete o vi lasciate andare? A molti sarà sicuramente capitato di avvertire quel pizzicorino proprio tipico e allo stesso tempo però di trovarsi in situazioni in cui lo starnuto si deve soffocare, penso a teatro, al cinema, ad una mostra. Allora voi in questi casi cosa fate? Cercate di trattenere lo starnuto e quindi iniziate, non so, a sfregare il naso, mordicchiate il labbro, cercate di respirare con più forza? Ma la domanda di oggi è: questi stratagemmi saranno un bene o un male? O forse invece vale proprio più la pena di lasciarsi andare, starnutire con soddisfazione? Noi giriamo la domanda al nostro esperto, non è un esperto solo di starnuti naturalmente, ma essendo un otorino laringoiatra e chiamandosi dottor Andrea Franzetti, sa il fatto nostro, il fatto suo. Dottore, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, starnutire o non starnutire, questo è il dilemma di oggi. Ma lo starnuto è un arco riflesso, si dice, cioè è una difesa automatica dell'organismo che deve liberarsi di qualcosa che è nel naso e che lo stimola. Quindi lo starnuto bisogna sempre assecondarlo come tutti i meccanismi di difesa dell'organismo. Però ci vuole un'educazione nello starnutire, perché per starnutire si corre il rischio di spruzzare in faccia ai vicini quelli che sono le molecole contenute nel muco che viene liberato dallo starnuto e quindi magari andare a inquinare qualcun altro. Ci liberiamo noi, ma inquiniamo altri. Ecco, ma per il nostro naso dobbiamo sicuramente sempre pensare agli altri, ma c'è chi fa proprio uno starnuto di quelli sonori un po' violenti e alcune persone dopo hanno un po' di sangue, no, nel naso, altri che invece lo fanno un po' più piccolo, soffocato. Il naso è più contento di un starnuto grosso, sonoro, o di quelli fatti un po' a mezzo naso, mi verrebbe da dire? No, è difficile che uno sanguini dal naso per uno starnuto, è più facile che uno sanguini dal naso perché soffia malamente il naso. Lo starnuto, se fatto a bocca aperta, sicuramente è fatto correttamente. Poi si può trattenere il cosiddetto ecciù, proprio per discrezione nei confronti degli altri, ma il meccanismo richiede proprio la liberazione. E sarebbe meglio proteggersi dallo starnuto, proteggere gli altri soprattutto, perlomeno con una mano, anche se poi andrebbe lavata. L'ideale sarebbe con un fazzolettino di carta. È vero, perché poi uno mette la mano, poi non se la lava e stringe la mano al, no, al collega, eccetera, e quindi è come se niente fosse capitato. Certo. Senta dottore, però noi quando parliamo di naso, io ne approfitto sempre per parlare di come si soffia correttamente il naso. Sì. È una cosa che noi insegniamo ai bambini, ma tante volte non lo sappiamo fare neppure noi. Allora, il naso invece è importante soffiarlo correttamente. Per soffiare il naso si praticamente provoca il passaggio dell'aria dalla gola attraverso una delle due narici. Quindi una delle due narici deve essere aperta e l'altra invece deve essere tenuta chiusa. Se invece noi soffiamo il naso stringendo in maniera forte entrambe le narici e provocando il famoso rumore anche fastidioso della soffiatura del naso, da pernacchia, diciamo, insomma, la cosiddetta pernacchia, questo sicuramente è scorretto per il naso, ma soprattutto per ciò che sta dietro al naso, che è la rinofaringe, che sono le tube, che sono le orecchie, che è la gola. Senta, dottor Franzetti, io ho un problema. Io non faccio uno starnuto, ma ne fa uno solo. Ne faccio 50 di fila, raffica, e con me molti dei miei ascoltatori, perché tutte le volte che parliamo di naso arrivano mail e messaggi di solidarietà. Che cosa si può fare? Allora, lo starnuto a raffica invece non è solo un meccanismo di difesa, ma è un disturbo che di solito avviene perché il naso viene stimolato e irritato da qualcosa che può essere un allergene o un fattore irritante. Per cercare invece di bloccare questo starnuto a raffica, bisogna cercare di massaggiare quelli che sono i sensori che ci sono sui turbinati nasali o nelle regioni olfattorie. E questo può essere fatto con un massaggio esterno delle narici, no? Quindi schiacciando il naso, massaggiandolo,

chi non ha zampe di gallina ha minore contrazione in quella zona dove si formano le rughe. Certo. Per cui che cosa fare? Sì. Proteggere gli occhi con occhiali da sole, usare occhiali da vista se per caso non ci si vede bene, perché lo sforzo degli occhi porta a contrazioni e le contrazioni continue portano poi alla formazione di rughette permanenti. Attenzione, ogni tanto per rilassare l'occhio bisogna guardare il cielo, guardare l'orizzonte, guardare un bosco, non guardare sempre schermi di computer o edifici quadrati, edifici di città per esempio, perché questi stancano l'occhio, l'occhio stanco invecchia prima, strano ma vero. Gli aborigeni australiani piuttosto che chi vive nella savana africana ha anche meno bisogno di occhiali, perché chi guarda sempre spazi aperti ha una vista migliore di chi è costretto in spazi chiusi. Quindi, dottoressa Serri, portiamo lo sguardo lontano, utilizziamo lo sguardo lontano e poi ci si possono applicare dei cosmetici adatti. Il retinolo per esempio è molto, la vitamina A e anche altre molecole, ma mai troppo vicino all'occhio, perché i prodotti che dovessero entrare nell'occhio possono causare dei problemi tali da portare addirittura a gonfiore, per cui stiamo molto attenti in quello che applichiamo. Spesso non è nemmeno necessario ricorrere a prodotti specifici contorno occhi. Ecco, io in genere suggerisco che se la crema che si usa per il viso non è una crema particolarmente acida o irritante, va benissimo anche per il contorno degli occhi, mentre ne serve un'apposita se si applicano prodotti troppo irritanti, per esempio a base di acido glicolico. Certo, comunque lei faceva riferimento al retinolo e a non utilizzare creme troppo grasse. E per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.